ripeto, lo ripeterò per tutta la mia vita, che ho dato testa, cuore, anima, ho dato tutto, io più di questo non potevo fare, lo leggete forse dal mio viso, dal mio sorriso, che sono felice, ho provato un'emozione fortissima, grazie comunque al pubblico, grazie alla mia famiglia, al mio allenatore, a tutto lo staff che mi è stato dietro. E è una felicità per me, è una contentezza, perché comunque poche volte io sono riuscita a dare il massimo e questa volta sono uscita stravolta. Ah vabbè, no, non è il mio obiettivo questo, sicuramente battere Federica sulle medaglie, non mi interessa, io lo faccio per me, voglio battere dei miei obiettivi, dei miei record che ho per me. Un medagliere tutto rosa, Alessia, ci siamo fatta la medaglia di Valerio Clery, quanto pesa per il nostro sport? Ma sicuramente abbiamo preso tantissime medaglie, non si sono mai, cioè questo è un medagliere secondo me più alto della storia del nuoto, comunque tra i tuffi sincronizzato e fondo e nuoto non ci sono mai state tutte queste medaglie. L'unica medaglia finora maschile è di Valerio, romano anche lui, ancora una giornata di gare dove vedremo comunque un Colbertaldo, un Pizzetti, incrociamo le dita.